Ci siamo? Ci siamo, ragazzi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzi, forza Ferrari. La partita un po' si è evoluta, nel senso che all'inizio sicuramente le fasi di conquista non erano così in difficoltà. Sicuramente nel secondo tempo è stato un grande punto di forza per la Francia. Noi abbiamo un po' subito, forse un po' frettolosi nella preparazione. Poi lì davanti non sono io che devo parlare, insomma il lavoro dei primi tre saranno loro magari a ricevere questa domanda. Però devo dire che purtroppo è stato un punto negativo per noi oggi, insomma nel secondo tempo. L'islandese mette il cross, deviazione, Mesto si fa sorprendere ancora da Juanito Gomez, circondato da maglie bianche, riesce a far arrivare il pallone a Toni, gran numero, Toni in area, il pallone passa e Toni lo mette dentro, il Verona in vantaggio al settimo minuto. Alfredson, Toni in allungo, Luca Toni, la doppietta di Toni. Giuri colpetto, carpo nero, prova a mandare dentro De Frel, che è velocissimo De Frel, in area di rigore, De Frel col pallone netto, scavalca Andanovic, 1-0 per il Cesena alla mezz'ora. Ancora Inter con Icardi, subito il cross dentro per Palacio, l'assist di Icardi, il tocco di Palacio, 1-1 in avvio di ripresa. Succo sonoro di una domenica strana, con la Ferrari che arriva terza per un gran premio stagionale, vinto col sigaro in bocca da Lewis Hamilton. L'Italia che ne ha preso un sacco, uno sport, l'Italia del rugby, pessima figura in casa contro la Francia 29-0, e poi i due spunti che sono usciti dal calcio, cioè chi si arrende, il Napoli con uno scriteriato turnover di Benitez, se poi ne parliamo, l'Inter che pareggia 1-1 in casa con il Cesena, e Mancini che dice vabbè, arrivare terzi un'altra volta, l'anno prossimo parliamo di scudetto. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione. Prima del programma, visti gli imperdibili spunti della domenica, stavamo disquisendo di cronaca, cioè non delle probabili formazioni delle tre partite che restano stasera, peraltro le più interessanti, Fiorentina-Milan, Torino-Lazio, Roma-Sampdoria, ma sul caso Alberto Stasi, il delitto di Garlasco, è riapparso Putin, questa è la cronaca che ci intrigava un po' di più. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, tu? Bene, a posto. Hai visto che è riapparso Putin? Era scomparso da 10 giorni. Si è incontrato con il presidente kirghizzo in un palazzo di San Pietroburgo, mentre Stasi probabilmente ha ucciso la sua ex fidanzata perché la riteneva pericolosa. Vabbè, se volete ve li leggete da un'altra parte, qui parliamo di sport, ci proviamo con voi. 800 24 00 24, numero verde. Mentre Ferrero dice vinco con la mia Sampdoria all'Olimpico, poi scendo in campo e canto grazie a Roma, speriamo di no. È stata la domenica della resa dell'Inter, innanzitutto alla prova dei fatti, e del Napoli che per la terza volta sbaglia approccio e formazione in trasferti in modo abbastanza comico. Sì, comico, tragico a seconda dei punti di vista, ma la cosa che mi colpisce di più, vabbè, il Napoli l'ho seguito direttamente quindi l'ho visto meglio, l'Inter ho visto le immagini dopo, e la cosa che mi colpisce di più è il nervosismo di Benitez. Sì. Cioè io nella mia carriera, la prova grossa, la mia esperienza di inviato, avevo conosciuto in questi anni un allenatore morbido, un allenatore che raramente rifiutava le televisioni, andava a fare la conferenza stampa, se ne andava così, non parla con nessuno, risponde come abbiamo visto dopo il fischio finale contro il Torino. Sono abbastanza preoccupato, cioè diciamo giusto, ecco, poi la vita va avanti. Sportivamente parlando, però, diciamo. Sì, però mi colpisce perché insomma. Che sta succedendo? È veramente incomprensibile tutto. Sì, ma com'è incomprensibile? Guarda, un continuo polemizzare col quarto uomo, il tempo, il recupero. Ho visto. Per carità, può far parte del kit, no, ma di un allenatore, devi spiegare questa follia del turnover, che in questo momento in cui le squadre ne hanno onestamente poca, attanaglia gli allenatori italiani, anche Mancini che decide tra Coppa e Campionato di fare un casino infernale con i portieri. Nel Napoli, Higuain in panchina, ci hai dato tu la notizia ieri in diretta dallo stadio. Ma come? Higuain, foglio delle formazioni, Higuain in panchina, appena fatto tre gol. È mezza, come diceva ieri Enrico, è mezza squadra. e aggiungerei anche il signor Gabbiadini. Anche il signor Gabbiadini, certamente, che poi entra nervoso anche lui. Cioè, poi Benitez se la può prendere anche col quarto, quinto, sesto e settimo uomo o con chi sta in tribuna, oltre che con i giornalisti. Però sinceramente sono mosso, poi a lui non andrà di spiegare, però noi abbiamo la facoltà di domandarci perché, no? Sì, sì, è questo non spiegare, come era già successo a Torino, al di là della polemica lì addirittura ad aziendam, tra l'altro non la mia, quindi insomma diciamo che è ancora più nobile insomma sottolineare che non aveva senso quella polemica lì, al di là del fatto che poi ci possono essere maggiori o minori simpatie, non rientro nel merito di quella vicenda lì, però insomma un allenatore, qualsiasi allenatore, ha un po' anche il dovere, oltre che il diritto, di poter parlare e di poter spiegare ai propri tifosi e all'opinione pubblica quello che succede. E a me sembra che questo non sia il caso, insomma. Mi sembra di vedere un Benitez stanco, un Benitez in difficoltà. Poi, insomma, è la stessa squadra che 4 giorni fa abbiamo lodato in Europa League, che speriamo possa arrivare più lontano possibile, ovviamente, in quella competizione lì, perché secondo me delle italiane mi sembra la più quadrata, la più strutturata per una competizione di Coppa, quindi adesso ci sarà questa partita importante dedicata a Mosca, ma insomma non è tutta una buttardia, però ci sono dei passaggi a vuoto impressionanti, non è la prima volta, è la terza trasferta consecutiva dopo Palermo e Torino, che sono errori di formazione e possiamo parlarne, sono errori anche di approccio, perché o sono legati, perché se togli Wayne dai un segnale alla squadra, ma allora questa è una partita che in cui si fa turnover eccetera, poi andiamo a Mosca a giocare, allora là ci sarà Higuain e poi vediamo. Secondo me per il Napoli tutte queste sono finali di Coppa, di quello che vuoi, ma sono finali, sono partite da vincere per arrivare a un secondo posto che vale tanto oro quanto pesa, e la Roma sappiamo bene come in questo momento sia attaccabile in attesa di conferme stasera contro la Sampdoria. Dunque è questa la cosa che mi sorprende in assoluto più di tutte. 800 24 00 24, naturalmente parliamo di questo e di altro dopo il traffico. Per favore andate a chiamare il Napoli, perché non c'è in campo, glielo dite di mandare quelli veri, ridateci quelli veri. Tutti convocati. Si vede anche un po' dagli occhi, no? Una battuta. No, ma non ho pianto. No, Roberto, secondo noi ha l'influenza, perché si vede che ha degli occhi un po' così, se non se ne... No, io non lo so come mai, forse... È il dolore. Cioè, è probabile, perché non, non è pianto, forse è il dolore che ho dentro. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Era una partita che vincendola si portava a 39, con 11 partite da giocare credo che poi tutto poteva essere possibile, anche se era abbastanza difficile arrivare al terzo posto, però 11 partite o 7 punti dal Napoli, insomma perlomeno si poteva sperare in qualcosa. Adesso credo che sia abbastanza difficile arrivarci. Diventa molto difficile, sinceramente sono troppe squadre davanti, essere a 39 sarebbe stato diverso comunque, e poi ci sono delle altre partite, quindi però insomma si erano avvicinati un po' al Napoli, quindi poteva essere ancora un obiettivo al momento, insomma è inutile parlare, cioè non è neanche logico, credo. Da una lacrima sul viso. Ovviamente Mancini è del tutto pretestuoso, perché l'intento vero era quello di fare gli auguri a Bobby Solo, che compie 70 anni. Esatto. Sai benissimo che è così. La lacrima l'ha fatta apposta per... ma anche qui, adesso abbiamo parlato del Napoli, anche qui mi sembra che ci sia della confusione e ci sia una squadra che non è mai decollata, dai. Non è mai decollata. Possiamo dire la resa di Mancini di ieri è una resa molto onesta, ma tardiva, nel senso che da un po' di tempo che abbiamo questa sensazione. L'Inter è un progetto che si accende piuttosto raramente, in qualche circostanza si è acceso con Mancini in una maniera molto interessante, questo unito alla grande popolarità che questo allenatore ha agli occhi dei tifosi ha creato un effetto entusiasmo in certi momenti, dopo il pareggio contro la Juve un bel secondo tempo, qualche altra circostanza. Sì, però no, non è mai scesa dall'altarena l'Inter. Però Andrea Ramazzotti, eccolo qua, inviato dello Spoglia. Sport. Come stai? Buongiorno a tutti, bene, grazie Pier, ciao a tutti. Ciao Andrea. Dei grandi, pistoiesi assieme al dottor Bonan, Senti, la pesi come Pardo sull'Inter? Questa luce di Natale fuori stagione che è l'Inter di Mancini? Io penso che sull'Inter vadano considerate due cose: uno, il cambio di allenatore a fine novembre; due, il cambio di quattro, che dovevano essere quattro titolari nel mercato di gennaio, che poi alla fine sono tre perché Podolski non gioca mai, mentre Brezovic, Santana e Shaqiri sono titolari. Mi sembra un progetto iniziato, ma appena iniziato, iniziato da un grande allenatore che soprattutto ha cambiato completamente quello che c'era, ha cambiato modo di giocare, ha cambiato approccio mentale, ha cambiato qualsiasi cosa. Io credo che lui, essendo un grande allenatore, pensava di poter mettere tutto a posto in poco tempo, e invece ieri sera c'è stata forse l'ultima dimostrazione che questa sarà l'ennesima stagione di transizione e che il prossimo anno bisognerà ricominciare il progetto. Mancini ha un contratto, vedremo se Mancini resterà. Ha cambiato pure troppo secondo te? Perché con Pierluigi prima si diceva anche la storia di Carrizo, Handanovic, un in coppa, un in campionato, e poi non sai come va a finire, o c'è qualche altro problema, o forse può aver cambiato anche troppo Mancini. Magari, sai, io ho una visione, cioè sono tanti gli allenatori che cambiano il portiere in coppa e in campionato. La visione personale è che magari quando ti è rimasta solo la coppa, in coppa gioca la squadra migliore. Mancini e quindi gioca Handanovic. Mancini, dall'alto della sua esperienza, dice: io mi sono giocato la FA Cup in Inghilterra e la permanenza sulla panchina del Manchester City, perché ho fatto giocare sempre il secondo portiere in FA Cup, in finale ho messo Joe Hart e Joe Hart mi ha preso un gol a due minuti dalla fine sul suo palo e mi ha sacrificato la coppa. Ecco, quindi sai, è anche difficile da dire. Personalmente io avrei messo Handanovic, ma magari poi lo dico si dice con il senno di poi, perché tutti abbiamo visto quello che ha fatto Carrizo nel secondo tempo col Wolfsburg. Sì. Intanto Pier, l'Inter ha una settimana per rischiare tutto e per magari non avere nemmeno più una strada. Sì, no, volevo chiedere a Rama però che qui al di là di Handanovic o di Carrizo, poi può succedere che sbagli Handanovic come è successo qualche volta, o che faccia il partitone Carrizo, non è questo il punto. Il punto è sulla gerarchia delle partite. Cioè io ero convinto già prima di giovedì che la strada maestra per l'Inter per poter provare ad arrivare in Champions non fosse il terzo posto. Ieri Mancini ha parlato di 39, diceva meno 7 dal Napoli. Innanzitutto non era scritto che il Napoli perdesse contro il Verona, poi c'era Lazio che gioca stasera. Cioè, a me sembra che onestamente il terzo posto fosse già da prima di quest'ultima giornata di campionato irraggiungibile, pure se avesse vinto ieri sera contro il Cesena. Mentre la strada chiaramente è stretta, strettissima, però dell'Europa League mi sembra potenzialmente un filo più probabile, e quindi secondo me la gerarchia sarà sbagliata di queste due partite, nel senso che per me era più importante Wolfsburg di Cesena e per Mancini no. Senza dubbio, Pier, ma io ho la sensazione, sai, che come si fa in certi casi, si fissano obiettivi alti, però si ha la sensazione di poter raggiungere ben altri obiettivi. Io credo che Mancini, al di là di dire vinciamo la Coppa e arriviamo terzi in campionato, io penso che, è un'opinione personale, però che lui si renda conto che questa squadra, per come l'ha presa, per come l'ha dovuta cambiare, per tutto quello che è successo a gennaio, non possa arrivare oltre l'Europa League, che quindi vuol dire quinto o sesto posto, col sesto posto che poi darebbe l'inizio alla prossima stagione in salita, perché come tutti sapete si inizia con i preliminari a inizio agosto. Ecco. Io non vorrei che comunque ci sono grandi squadre in corsa in Europa League, sono rimaste comunque, una l'ha pescata l'Inter, poi c'è il Napoli, la Roma eccetera eccetera, mi sembrano squadre che sono nettamente superiori all'Inter obiettivamente. Ma secondo me sulle due partite comunque l'Inter ha giocatori che hanno colpi, insomma, se devi rischiare tutto te la rischi su quel tavolo lì, cioè, mentre Non mi sembra, e mi sembra che ci siano le prove, una squadra capace in questo momento di poter fare un filotto di risultati tale da poter risalire la classifica, perché per arrivare in Champions League bisogna veramente fare, non ti dico il percorso netto, ma quasi. E invece in Europa League, sono d'accordo con te, ci sono squadre sicuramente più quadrate, più solide, però mi sembra che ci siano squadre più quadrate, più solide, ma che affrontino due partite, addirittura se dovessi arrivare alla finale in una partita sola, quindi con un margine di impresa più probabile, più semplice. Sempre difficilissimo, più semplice, perché noi abbiamo visto il Porto vincere la Champions League. Se fosse stato quell'anno un campionato di 38 giornate, il Porto non l'avrebbe mai vinto. La Champions è una competizione, la Champions e l'Europa League sono competizioni dove è più facile, centrando 3-4 partite fatte bene, riuscire a fare l'impresa. Sì, tu dici giustamente, invertiamo l'ordine dei fattori, quello che ci conta, quello che ci interessa è il fronte europeo, difficile, una scalata difficile, però usiamo il campionato per quanto possibile per preparare quei due impegni, era questo il senso, Andrea? Sì, no, ma il ragionamento di Pierluigi è un ragionamento giusto. E ragazzi, lui secondo me ha fatto questo ragionamento, però ne ha messo Carrizzo, e Carrizzo ha fatto quello che ha fatto, perché il resto della formazione che ha schierato giovedì scorso era il meglio che poteva schierare, quindi insomma, voglio dire, c'era Palacio, c'era Icardi, c'era Shaqiri, il centrocampo Medel, Guarin, Hernanes, la difesa era quella titolare, comunque con Juan Jesus, se si può dire che c'è una difesa titolare all'Inter con tutti gli errori che fanno. E il problema è stato Carrizzo, ecco, Carrizzo che comunque contro il Celtic aveva fatto il suo dovere, stavolta ha tradito, purtroppo la legge di Murphy, diciamola così, ecco, purtroppo. Quanto al discorso del terzo posto che fa Pierluigi, sono d'accordissimo, ma io sono d'accordissimo sulla rincorsa al terzo posto, non prima del pareggio con il Cesena di ieri sera. Sono d'accordo dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina, anche dopo il pareggio con il Napoli, che comunque sono troppe le squadre davanti all'Inter. Io credo che l'Inter farà una mezza impresa già se riuscirà a arrivare quinta quest'anno, ma credo che sia difficile arrivare quinta. Credo che l'unica soluzione possa essere il sesto posto, e quindi preliminari di Europa, per l'Europa minore. Certo. Andrea, grazie. Ciao a tutti. Ciao Andrea Ramazzotti. Quindi un messaggio, ne ho diversi. Voglio sentire gli ascoltatori su dopo il traffico 800240024. Senti questo, mi chiamo Michele. Volevo sapere se sapete se Ibrahimovic torna alla Juventus. Saluti, grazie e complimenti. Questo cosa ha fatto Ibra? Sì, sì. Una delle perle del weekend. Persa 3-2 a Bordeaux, tra l'altro segnando una doppietta, esce dal campo. Abbiamo l'audio? Sì. Sentiamo. Dopo? L'audio quando lo troviamo. Esce dal campo in 15 anni di carriera di calcio, non ho mai visto un arbitro come questo. Questo paese di merda non merita il Paris Saint-Germain. Oggi la Le Pen gli ha fatto un mazzo così, il ministro dello sport Camara ha dato un cattivo esempio. È tutta propaganda, no? Propaganda. Beh, certo, la Le Pen lo sappiamo, la Francia ai francesi, fuori tutti, guai a chi offende la nazione, qualsiasi pretesto. È chiaro che io non credo che Ibra pensi che la Francia sia un paese di è semplicemente in quel momento era incavolato e allora gli è uscita questa frase. Non lo giustifico, sicuramente un personaggio pubblico dovrebbe sempre pensare e ponderare esattamente parola per parola, e se fosse successo lo stesso in Italia mi avrebbe dato fastidio sentir dire una roba del genere, no? Però credo che fosse realmente legato a una situazione, a un arbitraggio, a una partita di calcio, non a un'analisi politica sul fiscal compact, esatto. sul livello delle istituzioni francesi. Però ovviamente la Le Pen fa il suo gioco, che è quello di fare un po' di propaganda. È saltata a due mani su questo tipo di polemica. Hai ragione, un personaggio pubblico dovrebbe comunque fare attenzione esattamente come fa Lotito tutte le volte che parla, no? A proposito di Lotito, c'è un'altra dichiarazione di Ferrerino che ha detto: Lotito è romanista, ma non lo diciamo perché sennò si arrabbia. Questo l'ha detto Ferrero. Questa è una voce che a Roma gira molto, girano anche delle foto. Vabbè, ma insomma, Lotito sta facendo dal punto di vista tecnico il bene della Lazio, sì. Punto. Sì, ecco, sì, poi questi discorsi. Candreva, sai, gli hanno fatto il processo per mesi perché Candreva sta facendo delle cose clamorose per la Lazio. Ma un grande giocatore. Quindi poi le origini, le fedi, ma soprattutto. No, ma sono sciocchezze. Secondo me in certi casi è un'eventuale simpatia per la squadra rivale da bambino diventa un'ulteriore dimostrazione di professionalità e di serietà, ma sì, da guarda, parte di un dirigente, di un presidente, di un giocatore, di un allenatore, perché vuol dire che tu riesci comunque a fare il tuo lavoro, a farlo molto bene, non hai bisogno. Sono professionisti, ma dai, non raccontiamo, cioè, non siamo ancora riusciti a pescare Di Livio, che però stiamo cercando, perché quella storia della stella che volevano levare delle Alpi perché era romanista, a me non va giù. 800240024 Borso, poi di nuovo qui. Tutti convocati. Torniamo per Luigi Pardo con un paio di ascoltatori, ma molti altri in lista, li sentiamo dopo. 800240024 Giorgio da Pescara. Buongiorno. Pronto? Pronto? Mi sentite? Sì. Sì. Ecco, senti, io quelle che volevo chiedere a Mancini. Perché quando una partita comincia deve finire 0-0. Non può fare la partita, mandare 20 persone all'attacco e 3 persone in difesa e uno che mi hanno fatto quel gol come ieri sera. Non è possibile. Sì, deve finire 0-0, non ho capito, al massimo deve finire 0-0, però non so. Voglio dire, quella partita male che va. 0-0. Beh, se finisce 1-1, sì, se finisce 1-1 cambia poco, sì. 0-0 o vinci 1-0. O vinci 1-0, cioè, però se vinci magari 2-0, 3-0 è pure meglio, secondo me. Ma non so se stasera. No, ma ho capito, non devi prendere i gol. L'Inter, questo vuol dire che l'Inter ha qualche problema strutturale dietro, prende diversi gol, ma questa è per l'appunto cronaca. Non so se viene Mancini da te a Tiki-Taka stasera, glielo puoi chiedere. No, la partita deve finire 0-0. È venuto qualche settimana fa, quindi se no non viene, mi sembra. No, che l'Inter abbia dei problemi difensivi non ci sono dubbi, insomma, poi che possa in generale nel calcio l'obiettivo essere provare a vincere le partite piuttosto che a pareggiare 0-0 mi sembra parisiano. No, ma in assoluto è lì certamente che si concentrano le maggiori difficoltà nerazzurre, non ci sono dubbi. Dietro sono. In questo Napoli e Inter, ovviamente Napoli ha più punti, è molto più avanti nella crescita, però hanno questa stessa particolarità, cioè sicuramente devono crescere dal punto di vista difensivo, della compattezza, devono riuscire a limitare gli errori. Io penso adesso a questa, alla madre di tutte le partite, quella di giovedì contro il Wolfsburg, e come diceva l'altro giorno Beccalossi, la vedo difficile, non impossibile, ma vedo difficile il 2-0. Cioè, mi sembra più facile un 4-1 che un 2-0, perché secondo me comunque il Wolfsburg il gol te lo può fare. Mentre dietro, insomma, delle fragilità i tedeschi le hanno dimostrate, l'Inter qualche possibilità ce l'ha, che sarà una grande notte, ce lo auguriamo, insomma, ovviamente. Però questa è una squadra che ha spesso dei problemi, spesso dietro. La media ce l'ha, dai. Sì, ha dei problemi dietro, ha dei problemi a centrocampo, dove chiaramente manca un costruttore di gioco. Poi Mancini ha, ad esempio, comunque resuscitato al calcio che conta, al calcio giocato Guarin, che era sparito nelle sabbie mobili. Secondo me pure Icardi è migliorato anche come movimenti da quando è arrivato Mancini, ma insomma ma alla fine finisco per essere quasi dettagli. Nicola, Napoli, buongiorno. E buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io invece per quanto riguarda, non sono per niente d'accordo con le mega critiche a Benitez che piovono solito, no? Perché se si guarda al Napoli, ok, deve cercare di arrivare secondo, no? Ma se si guarda al Napoli e alla Roma, club che non vincono mai niente, tra virgolette, al massimo si piazzano, il campionato è feudo sempre delle squadre a strisce, perché se non lo vince l'una lo vince l'altra. E in Europa, per esempio, faccio un esempio, la Roma tanto non ha mai vinto nulla, la Coppa delle Fiere non è la Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe. Sì. E il Napoli va a vincere l'Europa League e va in Champions, e in più vince la Coppa Italia. Non solo Benitez diventa l'allenatore del Napoli, che per poco che abbia vinto più vincente della storia, ma in quanto ha anche senso la stagione del Napoli. Allora, a Monaco, come perdi 2-0 con le seconde linee a Verona o 3-1 a Palermo, il pericolo è che tu con le seconde linee, e poi non c'erano tante seconde linee, forse in attacco c'erano le seconde linee, ma non in difesa, che è la difesa titolare, puoi perdere tranquillamente 2-0 e sei eliminato. La stagione del Napoli non ha più alcun senso. invece io così la vedo, invece io preferisco arrivare quindicesimo e vince, ma sono, vincere, su questo sono d'accordo, su questo siamo d'accordo. È la mia, e secondo me l'anno scorso il Napoli troppo presto si è sbrigato, si è liberato inconsciamente, non è che volesse perdere apposta, però ha fatto un grande turnover contro il Porto in Europa League. Io, figurati, sfondi la porta aperta, per me le coppe sono sacre, però insomma, però è un momento della stagione in cui non puoi sbagliare, perché siano pochi, bravo, dai, esatto, sei lì. Ragazzi, quest'estate diceva dobbiamo vincere il campionato, è vero che certe cose si dicono, però insomma è una squadra che viene da una serie di secondi posti. No, ma poi ti sei ricostruito un'occasione là dove forse non ce l'avevi più per demerito della Roma. Io dico che in questo momento, oh ragazzi, Wayne stringi i denti e va in campo, poi lo togli dal campo, lo metti a letto e lo rispolveri per 10 minuti prima della partita dopo. Parliamo di Napoli. Non lo so, si può dire che non abbiamo iniziato bene il primo tempo e anche il secondo, e per questo abbiamo pagato troppo. No, credo che abbiamo fatto 3 partite con un buon livello, la partita della Lazio, la partita dell'Inter, la partita del Dinamo Mosca, tutte e 3. Mantenere questo livello di intensità sembra che non siamo capaci, questo lo abbiamo visto oggi. Certo, la scelta è chiara con i giocatori che abbiamo dopo tante partite, era chiara, e con tutto quello che noi sappiamo. Ero arrabbiato perché, come ho detto tante volte, non mi piace perdere, non mi piace perdere di questa maniera. E non possiamo non convocare Boris Sollazzo col Napoli che prende 2 pere, eh? Eh beh, ti pareva, no? Disfatta uguale Sollazzo, insomma, che poi diventando... Sollazzo dovrebbe essere, no? Anche il cognome, dico. Lo so, infatti è una sorta di contrappasso praticamente. E allora come la vediamo? Come la vediamo? Siamo una difesa di Benitez, diciamo, cioè adesso sei lì, ogni partita te la devi giocare anche a costo di rischiare qualche cosa. Perché... Ma guarda, allora io da una parte dico che da una parte abbiamo delle squadre che possono fare turnover ed avere dei giocatori normali, e noi che abbiamo un Mesto che è un giocatore onestissimo ma che farebbe fatica in B, De Guzman che non è nulla di che, e David Lopez che è inquietante. Però detto questo, devo dire che la prima volta vera che un po' sono deluso da Benitez, perché ieri ha mandato un messaggio abbastanza preciso, comprensibile e anche giusto, però non all'altezza secondo me di quello che almeno lui ha voluto dimostrare di essere. Cioè lui ha detto no, una squadra che può lottare su 3 fronti, su che cosa punto? Non punto sul campionato, che se va bene dà un vantaggio al prossimo allenatore, punto sulle coppe che vanno nel palmarès mio e della società. Comprensibile, forse anche giusto se la scommessa la vince, però insomma, come dicevi tu prima, nel momento in cui ti eri creato una occasione, sì, ti sarà aperta questa strada, è abbastanza delittuoso, anche perché c'è una via di mezzo. Non dico che devi far giocare Gabbiadini e Higuain insieme, ma forse uno dei due almeno lo puoi mettere. Ma anche per dare un messaggio alla squadra, ragazzi, questa non è una partita, perché anche è anche questione di questo, no? Non è una partita che possiamo darla su perché l'obiettivo è Mosca. È vero che il Napoli corre ancora su 3 fronti, ma non vedo la ragione per non giocare un po' d'azzardo. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo insieme naturalmente con Boris Sollazzo per Luigi Pardo. Sono ascoltatori in linea. Tony Ferrando, ecco. Prendiamola a ridere, dai, prendiamola a ridere. Ma io non lo so, ma avete visto come abbiamo preso questo gol? Ma vi siete resi conto che gol abbiamo preso? Tutti convocati. Ritorniamo istantaneamente invece 800 24 00 24, sempre Pierluigi Pardo, Boris Sollazzo. Pier, si parlava appunto di turnover, ma ti ricordi quanto turnover faceva Mourinho nell'Inter delle triplette? Sì, no, no, poco, sicuramente zero. Poco, però è anche, va anche detto che Mourinho rischiò di perdere il campionato nel 2010, mm-hmm. No, ha vinto il triplete, ma magari senza quel Roma-Sampdoria, se dei rischi se li prese quell'anno. Ma certo, nessuno dice che non rischi. Quindi voglio dire, questo lo dico perché comunque il turnover non è una cosa facile, in questo momento se la Lazio, tanto per capirci, corre così tanto ed è così straordinaria, forse c'entra anche, oltre ai meriti di Pioli e della squadra, il fatto che ha due competizioni su tre, è un vantaggio oggettivo. Detto questo, io non vorrei sentire anche Boris sul nervosismo di Benitez, che è il tema che dicevo prima, nel senso che veramente mi sembra un elemento quasi sorprendente della carriera di questo grande allenatore, bravissimo allenatore che ha vinto tanto e che eravamo abituati a conoscere con un atteggiamento molto diverso. Mi sembra che da qualche settimana sia stressato, sia cambiato tutto nel rapporto con tutti, nel rapporto con gli avversari, con gli arbitri, con i giornalisti. Mi sembra veramente in una fase nervosa. Questioni contrattuali? Ma non credo. Contrattuali di che? Cioè, se vuole rimane, no? Credo che questo il discorso avrebbe già potuto firmare, penso. Uh-huh. Oddio, poi adesso il calcio le cose cambiano rapidamente, però insomma non credo che abbia problemi da questo punto di vista. Semmai può avere il problema di avere delle offerte da fuori, da altri posti, che possono diventare in qualche modo allettanti. Boris, che dici? Ma sì, sono abbastanza d'accordo sul contratto, credo che sia l'ultima cosa che lo preoccupi, dal momento che so di un De Laurentiis che sta facendo più di Ponti d'Oro, insomma ci sono proposte quasi dai miro per Benitez. Io credo semplicemente che Benitez si veda un po' davanti un piccolo fallimento personale che va al di là del risultato, nel senso che quei giocatori su cui lui ha puntato e che ha rivitalizzato, non scordiamo che Mesto lui se lo tiene dopo aver visto, leggenda vuole, tutte le partite del Napoli in DVD, e dice no, io questo me lo tengo nonostante fosse sulla lista dei partenti. E quindi questi gregari che lui mette sfruttando il turnover in qualche modo lo tradiscono. Tra le altre cose, tranne Higuain, a tradirlo sono anche i suoi madrileni. Secondo me si sente per la prima volta un po' il progetto fuori controllo, e sa che una parte della responsabilità è di chi, delle persone a cui lui ha dato fiducia. Credo che sia questo, e anche il fatto che forse lui un pensierino a fare una stagione grandissima e non magari una stagione ottima l'avesse fatta, e adesso forse è in crisi perché tra l'altro fuori da Napoli non è che ci sia molto per Benitez, a meno che non voglia scendere di livello. Sì, c'è questa Manchester City, ma non credo tanto. La Spagna ancora un anno di contratto del Bosque già annunciato. Cioè credo che si trovi un po' in una situazione in cui la scelta non è così facile. Sì. Credo che ormai, e questo insomma aumenta il nervosismo personale e di squadra, chiaramente, perché poi Napoli è comunque una squadra bella ma irritante. Impegnativa. Nel momento in cui deve fare qualcosa di importante, deve fare il salto di qualità, crolla, e l'allenatore sa che, al di là di quello che dice, sa che anche una sua responsabilità. Grazie Boris, alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Carmine, Torino, buongiorno. Qua, grazie della convocazione, davvero onorato. Ma io volevo allacciarmi a quanto ahimè avete in parte già detto, nel senso che sulle scelte rispetto al campionato l'Europa League, nel senso che Napoli, Inter e Torino secondo me stanno facendo, hanno fatto in parte delle scelte un po' discutibili, appunto. Parto dal Toro in quanto tifoso del Toro. Il Toro giocherà probabilmente con la squadra, diciamo, seconda squadra, se si può dire del Toro seconda squadra, oggi contro la Lazio, e giocherà con la squadra titolare contro lo Zenit. Secondo me è una scelta sbagliata, perché con lo Zenit oggettivamente siamo spacciati, perché la vedo durissima. Mentre in campionato, per come si stanno mettendo le cose, provare a vincere con la Lazio potrebbe significare anche, perché no, una possibilità di un terzo posto. Io cosa sono che contrarissimo. Anch'io. Sono contrario, perché invece io penso che l'Europa League, cioè io penso che al massimo in campionato, ma ci vuole un miracolo, ma proprio un miracolo, Sì, arrivi in Europa League. Massimo, ma secondo me non ci arrivi comunque. Secondo me è pure difficile, ci sono molte squadre davanti. Sì, adesso nell'Europa League non solo ci sei negli ottavi di finale, quindi devi trovare. Prendi questo rischio, in quel caso io invece non lo so, lo vedo come una scelta corretta. Pure per me. è una scelta corretta. E per me, guarda, ti dico, nel caso del Torino e dell'Inter, l'Europa League è la priorità, la vita, assoluta, certo, la priorità, certo, assoluta, perché non c'è, sì, non c'è in modo e con ossessioni diverse, sì, perché, certo, però è vero, è quella l'avventura da perseguire, perché non hai altro posto dove andare. Roma, Napoli e Fiorentina possono essere più legate alla possibilità concreta di andare in Champions League attraverso il campionato, e sappiamo che siccome la Champions League è la madre di tutti i pensieri, perché significa ovviamente soldi, significa la sopravvivenza di un certo tipo di progetto, la possibilità di fare un salto di qualità enorme nel caso di chi non è abituato alla Champions League. Pensiamo alla Lazio, se dovesse arrivare in Champions, qualcuno fa le battute sul fatto che poi lo Dino sarebbe costretto a investire, ma in realtà secondo me sarebbe molto contento di prendersi questi 20-25 milioni così in grandissima serenità, sì, da poter investire sul mercato come minimo. Quindi secondo me, nel caso appunto di Inter e Torino, con una logica diversa e con un livello di ossessione diversa, mi sembra che sia quella veramente la priorità assoluta. Roma, Fiorentina e Napoli possono avere altre idee, certo, esatto, certo. Pier, chi è stasera la tiki-taka? Chi vediamo? Ma stasera abbiamo a puntata soprattutto, chiaramente, con tre partite così belle e così importanti basate sulla cronaca, quindi abbiamo i collegamenti, abbiamo il sindaco di Firenze da Leonardella, poi c'è Mughini, poi c'è Giancarlo Dotto, penna giallorossa ma non solo, insomma, che è intellettuale raffinato, poi abbiamo Melissa Satta, Francesca Barra, Udice Axel, abbiamo Maurizio De Giovanni che è uno scrittore napoletano che ha scritto un libro Il resto della settimana, e quale si parla molto di calcio e di Napoli, Raffaele Auriemma, Dalai, Ordine, cercheremo di capire che succede al Milan, crisi Inter, crisi Napoli e le partite di stasera, e grande preview della Juve, ci sono i nostri inviati già a Dortmund, stasera già ci colleghiamo. Sono già là in campo, hanno piantato le tende a centrocampo e aspettano. Io invece ti lascio, ma so che fra poco stai per avere il signor Di Francesco, giusto? Sì. Dovrebbe arrivare. Sì, arriva. 15.05. Grazie, ciao. Pier. Ciao. Ciao. Siamo in tempo con Roberto da Modena. Roberto, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Tifoso del Sassuolo, magari. Diciamo del Modena. Del Modena. Anche se hanno rubacchiato il nostro derby con un gol validissimo di Granota. Niente, le chiedevo un suo quadro clinico su una dichiarazione che ho letto oggi del presidente Agnelli. Non c'è niente da scongelare con la federazione, perché non c'è niente di congelato. Io le chiedo, ma secondo voi, secondo lei, se la federazione dovesse perdere la causa contro la Juve con questi 443 milioni di euro, cosa può succedere? Mi faccia un suo quadro, che non ci ho capito bene ancora tanto. Io credo che, non ho letto quelle dichiarazioni, ma credo che si riferissero ai rapporti comunque difficili tra la Juventus, che sta all'opposizione in Lega, e alla Federcalcio, ai rapporti difficili dei vertici della Juventus con gli attuali occupanti di quelle poltrone. Non credo che quella affermazione fosse riferita a questa annosa questione della causa. Abbiamo GR, poi torniamo insieme. Di Francesco, allenatore Sassuolo, dovrebbe essere con noi. Parleremo di Formula 1 e di un nuovo idolo che abbiamo, che è Maurizio Arriva Bene, che già ci sta simpatico, non solo perché la Ferrari è arrivata a terza. Che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati come Alberto da Treviso, 800240024. Alberto, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. Niente, io volevo un pensiero, vedendo, io sono interista ma amo anche il calcio. Non può essere che Medel possa giocare centrale e Kovacic alla Pirlo davanti alla difesa? Tanto, mi sembra una formazione, no? Ma sa, mi sembra con Guarin e con tutti gli altri, mi sembrerebbe un azzardo. Cioè, giocare alla Pirlo davanti alla difesa, bisogna studiare. Non... Certamente, Kovacic può avere i piedi per fare quel ruolo, però Pirlo ha cominciato a giocare lì quando ha studiato da Pirlo. Cioè, non si tratta soltanto di essere bravi a fare girare il pallone con un tocco massimo 2. Ma bisogna sviluppare anche delle doti di interditore che Pirlo con il tempo era riuscito a sviluppare. È una questione tattica, di posizione. Cioè, non è una cosa banale, Alberto. Questo può saperlo Mancini, se ha quest'idea e se magari la prova tutti i giorni in allenamento e si fa un'idea di come possa germogliare questo progetto. Prendere uno anche molto giovane che non ha una personalità che mi sembra spacca come Kovacic al momento, prenderlo in un momento difficile e ficcarlo davanti alla difesa, far girare la squadra. Certamente l'Inter ha dei problemi di fonte del gioco, ma questo è evidente. A tratti ha giocato il miglior calcio della Serie A, non l'ho detto io ma l'abbiamo detto tutti, il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, che saluto e ringrazio. Buongiorno mister, buongiorno. Non buongiorno. Mi sente? Sì, io la sento, lei? Sì, adesso sì. Molto bene, molto bene, eccoci qua. No, dicevo, miglior calcio Serie A per lunghi tratti con una squadra che è un inno al Made in Italy, visto che se ne parla un sacco, è una scelta precisa, eh? Ma diciamo che le direttive della società erano queste qua, di cercare ragazzi giovani o perlomeno mettere in campo tantissimi italiani. È ovvio che io ritengo che se ci sono stranieri bravi ben vengano, questo di sicuro, non chiuderò mai le porte se ci sono giocatori stranieri bravi. Intanto i giocatori italiani bravi ce li ha giocatori di grande talento che tutti stanno guardando. Zaza gioca in nazionale, Berardi lo conosciamo e stiamo imparando a conoscere, ieri è stato il giorno di Sansone. Sì, sono tutti e tre ragazzi molto interessanti ed è molto facile guardare tutti gli attaccanti perché sono quelli che si mettono più facilmente in mostra. Tutti e tre devono completare secondo me la loro maturazione, però devo dire che passando anche per partite meno buone, con meno continuità, però sono ragazzi che devono fare queste esperienze per poter maturare e crescere. Senta, ma l'anno scorso esonero dopo un po' di giornate, arriva Malesani, ne perde un sacco in fila, poi viene richiamato lei, porta Sassuolo a una salvezza tranquilla e quest'anno ancora meglio. È cambiato qualcosa in quel periodo o in qualche rapporto? Ma diciamo che molto tranquilla non è stata l'anno scorso, perché quando era arrivato eravamo ultimi in classifica. Sì, lo siamo tranquilla bravi. rispetto alle premesse. Ma perlomeno abbiamo fatto un piccolo, se lo posso dire, un piccolo miracolo, perché l'anno scorso era più difficile. Quest'anno siamo ripartiti tutti quanti conoscendo meglio questo campionato, non rifacendo gli errori dell'anno precedente. In questo momento ci troviamo nella classifica che volevamo e posso anche dire che qualche punticino magari ci manca, perché sì, abbiamo perso qualche punticino per esperienza negli ultimi minuti che abbiamo preso gol nel finale, però sono contento di quello che sta facendo la mia squadra fino adesso. Ci mancherebbe. Ieri col Parma però non è stato un inno alla gioia quella partita, mi riferisco agli avversari. Ma è ovvio che, ma al di là della partita che andava giocata, per quello che loro stavano vivendo, ma avevano dimostrato nelle ultime due gare di non regalare niente a nessuno, come è stato, ma anche noi ce la siamo dovuti andare a conquistare sul campo, poi ovviamente agevolati dal gol del 3-1, anche se noi avevamo creato abbastanza per meritare il vantaggio rispetto all'unica occasione che hanno avuto loro il primo tempo in cui ci hanno fatto gol. Sì. In questo momento è inevitabile che gli allenatori che stanno disputando una grande stagione vengano accostati ad altre squadre. Sarri al Milan, lo sappiamo, anche su di lei abbiamo letto perlomeno qualche voce, qualche interessamento. Lusingato, contento, falso, quello che si è detto, scritto, sentito. No, al di là di quello che si scrive e che si dice, adesso penso che sia ancora presto per fare il mercato degli allenatori, perché c'è il campionato ancora in pieno svolgimento, ancora non sono stati raggiunti tanti obiettivi che poi magari possono delineare le fortune o le sfortune delle squadre e di noi allenatori. Ritengo che a me, io sono lusingato, mi fa piacere che se ne parli, lo ha detto lei, perché magari si è messo in mostra, o io personalmente, per aver dato un'identità e un'idea di gioco alla mia squadra. Di questo sono contento, ma sono anche contentissimo di allenare il Sassuolo. Leo Turrini, hai sentito? Il tuo allenatore. Salute Eusebio, che è un sassolese d'onore. Vedremo le chiavi della città presto, perché quello che ha fatto in questi anni resterà nella memoria del nostro piccolo paese. Poi non so, Carlo, se tu lo abbia celebrato a sufficienza, ma Di Francesco è un grande, anche perché è uno zemaniano doc. Cioè, voglio dire, esprime un'idea del calcio che è quella che, a mio modestissimo parere, dovrebbe essere comune a tutti, cioè cercare lo spettacolo, il divertimento, fare in modo che chi va allo stadio, insomma, riesca a immaginare di essere partecipe di una festa collettiva, perché questo poi è il fascino immortale del pallone, come dite voi che avete studiato, hai capito? Quindi Di Francesco è un grandissimo, io lo porterei con me alla Ferrari, dove ci stiamo riprendendo, hai capito? Questa è la notizia. Hai visto la, no, non credo che abbia visto la corsa ieri mattina presto, Eusebio Di Francesco. No, non l'ho vista, però devo dire che sono molto affascinato dalla Ferrari, di cui sono stato sempre tifosissimo, essendo italiano in tutti i sensi, no? Lo dimostra anche il nostro senso di appartenenza. Il fatto che abbia militato in una squadra in precedenza come il Piacenza, che era fatto di soli italiani, è, sì, devo dire che ha fatto meraviglie nel periodo, sì, in cui ero calciatore. Per quello lo ringrazio, dico che sono contentissimo di essere sassolese, lo dico con orgoglio, perché sono forse stato l'unico allenatore negli ultimi 30 anni che ha fatto più di 100 partite consecutive, con perlomeno ha tagliato le 100 partite con il Sassuolo come allenatore. Devo dire che per me è stato un bellissimo traguardo, ma non solo per le panchine, ma anche per i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni. Certo. Grazie mister, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Eusebio Francesco. Hai sentito, Leo? Ho sentito, voglio dire una roba, il traffico subito. Non c'è il traffico, non c'è il traffico. No, però se vuoi lo fallo tu. Allora, se siete rallentati sulla Piero Cormano, vedete che c'è un uomo sulla destra in piazzola che sta maneggiando disperatamente un cric. È chi miracolo, perché alla Ferrari non riescono a cambiargli come si deve una gomma. Allora, tornato dall'Australia, il santo bevitore sta facendo esperienza da solo, perché in Malesia, fosse mai che si trovasse davanti a Vettel, potrebbe essere il caso per Kimi di scendere dall'abitacolo e fare da solo. Sì, ma capitano tutte a lui, capitano tutte a lui. Però tu sai che da Piero Cormano, procedendo poi verso il Piemonte, si può imboccare la distanza, arrivare a Lourdes, perché in questo momento a Kimi serve solo una benedizione. Vuoi che ti citi le disavventure di ieri una dopo l'altra? Quali sono? Il bullone? Partenza, no, vai. Partenza, certo. Tu che sei il Dostoevsky della comunicazione radiofonica. Allora, partenza lampo che costringe Vettel a chiudergli la porta, giustamente, devo dire, perché pur essendo amici e compagni di squadra non stanno lì a pettinare le bambole, come chiaro, direbbe Bersani, chiaro, no? Quindi fanno i piloti, ok. Però a seguito di questa vicenda il debuttante Sainz decide di festeggiare il suo ingresso in Formula 1 tamponando il biondino della Ferrari. Ora a questo punto l'altro rookie Nasr dice: posso io essere da meno? E dà una piallata laterale di fianco alla rossa del finlandese, il quale, ripetutamente colpito, cornuto e mazziato, vede il cambio della Ferrari andare in stallo. Sì. Ciò nonostante riparte, fa un galone da paura al, direi, il miglior pilota in pista con Lewis Hamilton, e due volte non funziona il crick. Avete capito perché Raikkonen si è fermato, fa le prove, si cambierà le gomme da solo in Malesia, e nel frattempo farà un breve soggiorno per una benedizione ben augurata sui Pirenei, esattamente, che prende anche un po' di aria fresca. Chissà che non possa dargli una mano a cambiare quella gomma uno dei nuovi idoli di questa stagione. Maurizio si chiama Arrive Well? Mr. Arrival. Allora, attenzione, voi avete visto ieri l'episodio del dado di Raikkonen. Sì. Il meccanico che non ha realizzato felicemente l'operazione è stato chiamato da Arriva Bene a fare come Rocky Balboa 100 flessioni su un braccio solo per un'intera settimana. È stato perdonato in nome dell'esuberante trasparenza che caratterizza questa nostra nuova realtà. Io mi sono messaggiato anche pochi minuti fa con Arriva Bene, sì, e devo dirvi che è un personaggio da cinema, perché voi lo vedete al muretto, no? Uh-huh. Ha questa faccia da duro, no? Sì. Lo vedi e dici: ma questo è Clint Eastwood, una Magnum 44 per l'ispettore Callaghan, no? Sì. Ma in realtà un cuore di marzapane, mio. Dici? Ma te lo dico io. Io credo che i cuori di marzapane non si siedano nei pressi di un muretto di Formula 1. Lasciami questo pensiero. Però te lo faccio sentire, eh. Senti cosa ha detto. Quel, quel grido che hai fatto, vorrei che tutti i ragazzi andassero sotto il podio, così hai detto, no? Subito quando hai visto che Sebastian avrebbe chiuso terzo. Sì, perché la squadra lo merita, era un po' che non vedevano il podio, anche se non è quello che voglio io. No, sono contento per il podio, sono contento per Seb, non sono contento io perché anche con Kimi potevamo fare assolutamente meglio, sono sicuro perché stava picchiando come un martello e c'è stato un piccolo problema, però ok. Eccolo qua, arriva bene. Ma caro Zit, tu che sei un cultore delle emozioni forti, no? Ma come si fa a non amare questo arriva bene? Voglio dire, questa trasparenza esuberante, è arrivata a Melbourne, si è messo a lanciare i cappellini, sì, della Ferrari, sì, sì, tra, sì, i tifosi, sì, australiani. Sabato finiscono, sì, sì, le qualifiche, la riunione tecnica l'ha fatta in pubblico in mezzo al parco con Vettel, Raikkonen, i responsabili. Mi ha portati a fare il picnic, ragazzi, merenda, a fare il picnic. Ma guarda, ma noi qui siamo in presenza di qualche cosa, devo dire. Ma non mi voglio allargare, mi metterei tutti in nudo come Benigni per la felicità di parlare con te, poi parlare di arrivo. Beh, voglio dire, siamo in presenza di qualcosa di onirico. È una cosa, allora, la Formula 1 purtroppo negli anni è diventata una cosa molto plumbea, no? Molto, poi tu insomma te ne sei accorto, no? Con queste atmosfere sempre pesanti, regole astruse, sempre più lontana, voglio dire, dalla gente, certo, comune, certo, certo. I rumori dei motori, che ti ricordano un tagliaerbe di una villa lussuosa di Ginevra, sai, invece noi eravamo abituati a queste cose, i turbo di una volta da 1200 cavalli. Grazie al cielo è arrivato un mister arrival, le riunioni si fanno all'aperto, se un meccanico sbaglia faccio flessioni su un braccio solo come Rocky Balboa, hai capito? Siamo contenti del terzo posto? No, ha ragione, perché noi dobbiamo guardare. Ma come no? Ma sì, no, che sei contento del terzo posto, io dai. Sono, però allora, più logica, di così non puoi fare, no? Sì, ma la logica qual è? Che non ti devi accontentare, cioè il messaggio che viene trasmesso al popolo, voglio dire, è come Mazzarri, no? Che cosa ha detto Mazzarri in Giappone? Se c'ero io arrivavo terzo all'Inter, no? E allora io ti dico, Mazzarri, guardato che fai interviste in Giappone, fatti assumere dalla Honda e vai alla McLaren Honda, che beccano 4 secondi al giro e magari se ci sei tu, chissà, arrivano terzi, hai capito? Ecco, se non altro invece abbiamo una Ferrari che dice, bene, ci stiamo riavvicinando, siamo soddisfatti, ma col tempo che ci vorrà, naturalmente, l'ambizione, sì, ma non di arrivare a vincere, ma è stato detto, se vinciamo un gran premio sarà un trionfo. Intanto mi sembra che in assenza di avversari la Ferrari possa essere la seconda forza del mondiale, staccata di diversi giri di pista da Hamilton, che tra parentesi mi sembra molto più deciso, cattivo, convinto, sicuro dell'anno passato, e io Rosberg non lo vedo bene neanche un po'. Una cosa, Rosberg, secondo me tra un po' gli cambiamo il cognome in Rosberger, sì. Rosberger, perché comincia a somigliare a Gerhard Berger quando era, sì, il secondo di Senna, no? Che ogni anno Gerardone diceva, tra una bionda, una rossa e una mulatta, ah, questo è il mio anno, vernicerò a Ayrton, no? Poi le cose andavano in un altro modo, era un bravissimo secondo, ma un secondo, sì. Ora io non voglio dire, perché questa è la prima tappa della stagione, che Nico si sia già rassegnato a questa dimensione, però l'idea che abbiamo è che il nero col titolo bis conquistato poco, esatto, fa, abbia, si sia tolto, si la sia tolto, spalla, bravo, no? La stessa impressione che ho avuto io, come professore, ti credo a questo punto, amen. Adesso e andiamo libero, tutti al mare, libero con la testa, poi sai, si è liberato anche di quella patonza che, come diceva Berlusconi, deve girare, della Nicoletti, ah, Berlinguer, eccetera, quindi non ha più da rendere rapporto tutte le sere, insomma è molto più free, molto più tranquillo. Io l'ho visto guidare a Melbourne sia sabato, quando ha dato 6 decimi a Rosberg, no, in maniera pazzesca, con una tranquillità devastante. Allora se è così, Rosberg non lo vedo benissimo. Diciamo una cosa, caro, però anche per Vettel, mentre Raikkonen, vi informo che è riuscito a montare la ruota sulla Piero Cormano, quindi la coda si dovrebbe diluire, è ripartito, ma forse ci sarà lo stesso problema, si dovrà rifermare alla prossima piazzola. No, diciamo una bella cosa anche sul conto di Vettel, perché primo giorno, primo weekend vestito di rosso ufficiale, come Schumi nel 1996, luogo Melbourne, Albert Park, in una situazione comunque non semplice, perché la Mercedes è più forte, e questo ragazzo ha tirato fuori il massimo possibile, è salito sul podio, ci ha fatto rivedere una tuta rossa sul palco delle premiazioni, che io ieri temevo di essere daltonico perché non ero più abituato, invece c'era proprio una tuta rossa lì, era la sua. E poi guarda questa cosa, che questo taglia il traguardo, tu mi dirai sei un provincialista patriota. No, hai ragione, ma dai, la forma conta, la comunicazione conta, Leo. Via radio, forza Ferrari, insomma ragazzi, una bella cosa, dobbiamo dirlo, ti fa piacere, perché poi parliamo di un giovanotto che ha vinto 4 mondiali, quindi non è che hai capito... È l'ultimo freddo arrivato. Il tenero virgulto che deve conquistare stima e prestigio. Insomma, ci sono delle premesse buone, speriamo di vincere qualche corsa, caro gente, cosa vuoi che ti dica? Tu hai scritto Delitto e Castigo in quanto Dostoevsky della radio, sei un fuoriclasse assoluto, perché l'altro giorno non c'eri? Non lo so, ma ha detto che eri bloccato nel traffico. Ero bloccato sulla Salerno Reggio Calabria, perché... l'avvocato Montezemolo. C'era il camion delle Red Bull, esatto. Soprattutto il figlio del Montezemolo che gestì Italia 90, suo figlio responsabile di Roma 2024, noi diciamolo sempre, perché te lo chiedono gli americani, dicono ma sarà mica la stessa persona in Italia che 35 anni dopo ha lo stesso ruolo? No, è il figlio, c'era il figlio a Montezemolo, che questo ducato che gli ha dato Marchionne incomodato, gratuito, d'uso, ogni tanto fa le bimbe, sput, si ferma e si creano code sulla Salerno Reggio Calabria. Esatto, e io ero intrappolato lì, e c'erano anche le Red Bull e anche le McLaren, di cui parliamo la prossima volta. Ciao Leo. Un abbraccio. Ciao Leo, ti voglio bene, Leo Turrini. Beh, Federico da provincia di Ascoli Piceno lo saluto, anche se mi mancano 20 secondi. Federico, buongiorno. Buongiorno, telegrafico. Volevo fare i complimenti a Turrini. Sì. Volevo dire solamente che io tutto questo ottimismo sulla Ferrari non l'ho visto. Mi dispiace, anche se sono tifoso, non... al di là Kvyat non è partito, Bottas non è partito, sì. Le McLaren non c'erano, 10 macchine che correvano. Sì, praticamente è stato un flop, la corsa è stato un flop, però è chiaro che la Mercedes quest'anno non la vai a prendere, la corsa della Ferrari è per arrivare dove Vettel è arrivato ieri, quindi... Se non vogliamo essere ottimisti dopo le bastonate prese negli ultimi anni, facciamolo pure. Il primo giorno diciamo che non è andato male, un 7 in pagella, Vettel e la Ferrari l'hanno portato a casa. Grazie Federico. Francesco da Milano, ci sentiamo domani, mi perdoni, devo chiudere il programma. Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, ciao a tutti. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, eccolo!